La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere, adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 4 mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. L'articolo 81 della Costituzione è il crocevia del bilancio dello Stato. Infatti è l'articolo 81 che pone il principio che le spese devono essere coperte e che quindi le Camere devono controllare il bilancio dello Stato. Nel 2012 questo articolo è stato modificato per renderlo ancora più rigido e per introdurre il principio del pareggio di bilancio. Ovviamente alle spalle dell'articolo 81 abbiamo tutto il problema del debito pubblico e della spesa pubblica. Sappiamo che oggi l'Italia è indebitata al 140% del suo prodotto interno lordo, del suo PIL, e che ha una spesa pubblica di 800 miliardi l'anno. Tutto ciò è iniziato soprattutto a partire dagli anni 70 del secolo scorso, perché è da allora che il debito pubblico è cominciato a crescere moltissimo, grazie all'aumento della spesa per le pensioni e della spesa sanitaria. Dal 1992 è cominciata una politica economica di rigore per cercare di contenere le spese e di far rientrare il debito, ma ad oggi non si sono ancora raggiunti risultati significativi. Tuttavia l'articolo 81 impone il controllo del Parlamento sul governo e quindi l'approvazione annuale di una legge fondamentale, la legge di bilancio. La legge di bilancio negli ultimi anni ha cambiato spesso nome, prima legge finanziaria, poi legge di stabilità e ora proprio legge di bilancio. È la legge che serve anno per anno a fare il punto delle entrate e delle uscite dello Stato. Negli ultimi anni la legge di bilancio è sempre stata vista da noi cittadini come un provvedimento lacrime e sangue. Questo perché negli ultimi anni, purtroppo, la legge di bilancio è sempre la sede dove rinvenire la copertura delle spese e quindi cercare di far aumentare gli incassi dello Stato per far fronte alle spese sempre maggiori. La legge di bilancio è l'unica legge che viene approvata sicuramente dalle Camere anno per anno. Viene approvata sicuramente in quanto ha un percorso parlamentare protetto, che è quello della sessione di bilancio. In pratica, da ottobre a dicembre, il Parlamento deve esaminare primariamente la legge di bilancio e fin tanto che non venga approvata non può approvare altro. È per questa ragione che l'approvazione della legge di bilancio è praticamente sicura ed è per questa ragione che la legge di bilancio diventa così importante. Diventa così importante in quanto, da un lato, il governo utilizza questo strumento per fare la sua manovra. La manovra quindi di nuove entrate, minori spese, tagli. Soprattutto tagli negli ultimi anni. Ed è per questa stessa ragione che invece i parlamentari, i gruppi, le lobbies cercano di salire su questo treno rapido, perché in fondo, nella lentezza dei lavori parlamentari, la legge di bilancio è un treno rapido che arriverà sicuramente alla stazione. E allora, anno per anno, sulla legge di bilancio troviamo presentati 5.000, 6.000, 8.000 emendamenti, cioè tutti gli interessi dei vari gruppi parlamentari trovano emersione rispetto a questa legge e tutti sperano di poter far inserire nella legge di bilancio l'emendamento di proprio interesse.